Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e insomma, come vi hanno raccontato i nostri GR, la situazione peggiora. Da dove iniziare? Oggi è veramente difficile. Comunque iniziamo dall'elemento più importante, ossia quanto sta aumentando la differenza tra quanto rendono i nostri BTP, quindi quanto deve offrire lo Stato italiano per trovare dei finanziatori sul debito e quanto rendono quelli tedeschi. Purtroppo lo spread è aumentato a un nuovo record storico da quando c'è l'euro, 300 punti. Ora, la Spagna, nei momenti peggiori, per dare un'idea, quando si parlava di attacco alla Spagna, era 260. Anche la Spagna sta salendo, gli spread sono aumentati per il Portogallo, una cosa il 10% e con un 13% di rendimenti sulle obbligazioni, il 10% anche per l'Irlanda. La vera notizia però riguarda l'Italia, il big fish, come spesso abbiamo detto, il pesce grosso, i pesci grossi erano e sono Spagna e Italia. Chi si attendeva che dopo quello che era successo venerdì e dopo la decisione della Consob di limitare le vendite allo scoperto, oggi la giornata sarebbe stata diversa, resta deluso. Anzi, la borsa sta per andare a chiudere sul terreno minimo, meno 4% in questo momento il FTSE MIB, pesante anche Parigi, perde quasi il 3% e anche lo spread del BTP francese rispetto a quello tedesco è aumentato, non a livelli paragonabili a quello italiano, ma è salito a un nuovo record, 70 punti. Dicevo, malissimo tutte le altre economie, è chiaro che però l'emergenza si crea sul nostro paese e poco fa sono tornati i leader riuniti oggi a Bruxelles per il vertice dell'Eurogruppo a parlare di Italia. Questa mattina Angela Merkel e poi anche altri funzionari del governo tedesco avevano detto, insomma, la manovra italiana va bene, deve esserci più rigore, però non abbiamo nessuna crisi di fiducia sull'Italia, anzi su questo la presidenza polacca ha detto non c'è un rischio di contagio verso l'Italia. La Germania ha ribadito, grazie a Angela Merkel, che è determinata a difendere la stabilità dell'euro, ha telefonato a Berlusconi, approvate la manovra, ha chiesto la Merkel, poco rituale telefonata, nel senso che sembra quasi un commissariamento dell'Italia secondo alcuni siti. Le riforme sono un segnale importante, ha detto Angela Merkel, piena fiducia nel governo italiano sulle misure. E poi anche il ministro delle finanze tedesco ha detto la manovra italiana convince. Non è servito a nulla, nel senso che queste dichiarazioni sono arrivate tra l'una e le due di pomeriggio, il mercato ha continuato a peggiorare, adesso stanno leggermente migliorando sia Unicredit che Intesa San Paolo, che sono arrivate a perdere quasi l'8%, adesso perdono solo, si fa per dire, il 6% Intesa, cioè Unicredit il 6%, Intesa il 6,70%, ma ripeto, oggi più che guardare alla borsa è il caso purtroppo di guardare a come si stanno muovendo gli attacchi sul nostro debito, perché il 3% di differenza vuol dire iniziare a scommettere sul fatto che anche l'Italia sarà il prossimo obiettivo. Tra l'altro avete appena sentito un economista di Bruxelles dire che il fallimento della Grecia ormai non è più evitabile nonostante tutti i tentativi. Vediamo il bicchiere mezzo pieno, mi chiede un ascoltatore, bicchiere mezzo pieno, facciamo un po' fatica a vederlo oggi. Da dove partiamo? Partiamo dall'euro. L'euro ha toccato un nuovo minimo storico con il franco svizzero, sul dollaro invece siamo ancora a quota 1,40, ma l'America, come avete letto, ha un problema grosso, deve far passare assolutamente la nuova manovra finanziaria, altrimenti ci sarebbe un caso, seppur tecnico, di default del debito americano. Non si è mai verificato nella storia americana. Barack Obama dovrebbe parlare più o meno a quest'ora, ma non abbiamo ancora nessuna notizia né agenzia su questo. Allora iniziamo una lunga cronaca di questa giornata. Ci avete chiesto anche di spiegarvi cosa sono le vendite allo scoperto, cosa sono altri termini, cos'è lo spread. Abbiamo preparato una scheda anche per questo. 349-238-6666 per i vostri sms. Poi, Mi fa impazzire l'ascoltatore che scrive: non date allarmismi. No, ma guardi, noi non diamo nessun allarmismo, è semplicemente al nuovo a 300 punti la differenza col Bund, non lo so. Unicredit ha perso quasi il 30% in tre sedute, se sembra questo dare allarmismi. Vabbè, non ci sono per molte altre notizie oltre a quelle che vi ho ricordate, quindi continua l'attacco nonostante la decisione della Consob all'Italia, un attacco che è iniziato, cioè l'allargamento della differenza tra quanto rende un BTP tedesco e un BTP italiano è iniziata il giorno dopo le elezioni amministrative, cioè tutti gli osservatori sono concordi nel dire che non è cambiato nulla sul debito italiano, che resta elevato, né sulla manovra italiana. Quello che stanno valutando e il motivo per cui si attacca un paese già fragile dal punto di vista del debito e del deficit è l'instabilità, la debolezza del governo, l'instabilità politica. Nel frattempo la benzina va ancora al rialzo, il picco si è toccato di nuovo nel sud del paese, 1,670 euro al litro. Ancora per quello che riguarda, volete sapere la cronaca della giornata, non ci sono molte altre notizie. Io inizierei allora a raccontare la cronaca sostanzialmente da questa mattina della giornata. Volete altri titoli bancari? Azimut perde il 7,40, Mediolanum perde il 6%, Telecom il 5,50, Fiat il 5,50, Tozzi il 5%, Generali 4,40. La vicenda e la sentenza CIR non sta avvantaggiando né la CIR né chiaramente Mediaset, ma quello era più immaginabile, e anche di questo parleremo nel corso dei mercati finanziari. Mediaset perde il 3,43% in questo momento, in assoluto il titolo che perde di più è Poltrona Frau, meno 11%, poi Investimento e Sviluppo meno 9%, il titolo che guadagna di più è Ceramiche Ricchetti più 5% e poi Italy One Investment più 13,4%. Allora raccontiamo la giornata di oggi che si concluderà, ci auguriamo, tra un quarto d'ora, perché prima si conclude meglio è. Allora, la cosa più preoccupante è il fatto che lo spread, la differenza tra quanto deve pagare l'Italia per trovare finanziatori sul suo debito e quanto deve pagare la Germania, si sta avvicinando al livello spagnolo, nel senso che per mesi la Spagna viaggiava a 260 punti, cioè il 2,6%, l'Italia era stabilmente sotto i 200 punti, a 140, a 130, quindi con un punto percentuale di differenza. Adesso la differenza tra noi e la Germania è di 300 punti, la differenza tra la Spagna e la Germania è volata a un nuovo record, 337 punti, ma purtroppo si sta avvicinando anche la posizione italiana con quella spagnola. Un BTP decennale spagnolo a questo punto rende il 6%, non accadeva dal 1997, un BTP a 10 anni italiano rende il 5,67%, non è mai successo da quando esiste l'euro. Record anche in Portogallo, i BTP a 10 anni portoghesi rendono il 13,30%, un livello quasi da fallimento, e anche a Dublino in Irlanda il 13% di rendimento. Immaginate, come se una banca vi chiedesse di dare degli interessi intorno al 13% per ottenere un prestito, sarebbe il segnale che la banca si fida pochissimo, quasi nulla di voi. La differenza tra sia per il Portogallo che per l'Irlanda con quanto rende lo stesso BTP tedesco è ormai del 10%, ossia 1000 punti. La Francia è ai livelli più alti da marzo del 2009 a 62 punti e la Spagna, l'abbiamo appena aggiornata, il record del BTP italiano non si vedeva da mai. Avete appena sentito nel nostro GR l'intervista all'economista del CEPS di Bruxelles, Cinzia Alcidi, sulla Grecia. Ha detto che la Grecia è tecnicamente fallita, cioè è inevitabile ormai gestire il suo fallimento. Ha commentato sempre al microfono il nostro Sergio Nava anche la situazione italiana. Penso che l'elemento scatenante sia di natura politica, incertezza politica. Fino adesso i mercati finanziari hanno tenuto l'Italia in una situazione diciamo speciale rispetto agli altri paesi periferici, perché essenzialmente la politica fiscale è stata rigorosa e c'è una certa fiducia nei mercati nei confronti del ministro Tremonti. Ora è chiaro che ci troviamo in una situazione di spaccatura politica e questo ha generato una fortissima incertezza. I mercati temono che l'incertezza politica spinga verso manovre che siano più demagogica, populistica, quindi un aumento della spesa e quindi una situazione di mancato controllo della spesa pubblica. Come se ne esce? L'impressione è che a questo stadio le parole non servono più, non bastano più. Quindi è necessaria un'azione molto forte. I tempi stanno stringendo. Più aspettiamo, più diventa rischioso. Quindi la situazione è veramente una situazione di emergenza molto elevata. Vedremo che cosa verrà fuori oggi dall'Eurogruppo, ma c'è bisogno di una decisione e probabilmente anche con la possibilità che dei soldi siano messi sul tavolo. Allora, c'è chi contesta la mia frase sul commissariamento tedesco. No, ho detto semplicemente che Angela Merkel, che chiama Berlusconi per dire approvate la manovra il prima possibile, è non un commissariamento, ma insomma è una Germania che fa moral suasion, chiamatela come volete, sull'Italia, perché non si distragga, perché anche la Germania si è resa conto che la situazione italiana e il peggioramento della situazione italiana e spagnola non potrebbero essere gestiti come quella greca, già gestita molto male, e nemmeno come quella portoghese e irlandese. Noi siamo il primo partner commerciale della Germania in Europa, e quindi la Germania ha tutto l'interesse perché l'Italia mantenga una posizione di stabilità. Un commento, sempre al microfono del nostro stagionava, anche dal ministro delle finanze irlandese Jan Kees de Jager. Il governo italiano ha proposto riforme di bilancio. Accogliamo questo con favore perché la via di uscita da questa crisi non è tanto mettere sul tavolo nuovi soldi per un fondo di emergenza, ma fare in modo che i paesi dell'Eurozona attuino riforme di bilancio e riforme economiche. È la strada giusta. Se tutti la percorriamo, presto usciremo da questa crisi. E poi, mentre ringrazio per averci raggiunto in collegamento l'economista, ex commissario della Consob, Salvatore Bragantini, buonasera dottore. Buonasera. Dicevo, adesso arriviamo anche a lei, due commenti. Emma Marcegaglia chiede che la manovra venga approvata subito, l'ha chiesto questa mattina a margine della cerimonia per i 100 anni del Viminale. Ascoltiamola, microfono del nostro Andrea Viali. Non è che possiamo bloccare, no, i mercati. Il tema vero appunto è proprio la Grecia da una parte e la manovra subito e la coesione, diciamo, nell'insieme, cioè non è che possiamo bloccare i meccanismi di mercato. Con lo spread BTP Bund ai massimi in crescita, la manovra va approvata subito, i saldi non vanno cambiati minimamente e credo che vada veramente approvata nel più breve tempo possibile, perché abbiamo bisogno di mostrare, come dire, coesione, capacità appunto di portare a casa questa manovra molto velocemente. Quindi questo direi che è assolutamente fondamentale. Volete sapere se ci sono dichiarazioni del governo, del ministro Tremonti, di Berlusconi? No, Tremonti è al vertice Eurogruppo a Bruxelles, Berlusconi non ha parlato il ministro Romani, ha detto la speculazione è basata sul nulla, i conti sono a posto, ok, ma non lo deve spiegare a noi, lo deve spiegare al mercato, che porta lo spread a 300 punti del BTP italiano sul Bund. Invece il direttore generale di Confindustria Giampaolo Galli, a margine di un'audizione in Senato, al microfono del nostro Vincenzo Miglietta, la politica ci deve mettere al riparo dai rischi finanziari che stanno colpendo l'Europa. Noi facciamo un appello a tutte le forze politiche a mostrare in questo momento il massimo di senso di responsabilità di fronte ad una situazione che è indubbiamente molto molto difficile. Come parti sociali credo abbiamo fatto e abbiamo mostrato responsabilità quando abbiamo firmato qualche giorno fa l'accordo interconfederale. Ora la politica deve essere coesa attorno all'obiettivo di mettere questo paese completamente al riparo dai rischi finanziari che stanno colpendo l'Europa. Ci sono alcune cose che riguardano la crescita, per esempio ci sono delle norme positive che riguardano il venture capital, che è una cosa importante per aiutare la nascita di nuove imprese. Ci sono delle cose a nostro avviso anche positive per quello che riguarda la riduzione dei tempi della giustizia civile. Sicuramente la nostra idea è che bisognerebbe fare di più sul piano della crescita, in particolare per quello che riguarda le liberalizzazioni. C'era una delega collegata al decreto relativa alle liberalizzazioni che è stata invece stralciata. Allora, dottor Bragantini, prima domanda, l'effetto Consob non c'è stato, la Consob ha bloccato le vendite allo scoperto nei weekend oggi è andata peggio di venerdì. Sembra di sì. Sembra, no? Meno 3,92 con uno spread a 300 punti. Sì, sì, è così. Questo vuol dire che qualunque tentativo poi è vano nel momento in cui tu hai mercato contro? Beh, indubbiamente buttarsi contro la marea che sale è difficile o forse inutile. Il problema è che serve una coesione sociale e politica di cui non si vede non si vedono le premesse. A un certo punto, in una situazione così eccezionale, io mi aspetterei un qualche provvedimento altrettanto eccezionale sia sui costi della politica, che non sono grandissimi numeri ma servono per la coesione, tagliare i costi della politica, sia sul piano più generale con un'iniziativa forte del paese nel suo insieme. Io penso che avere un governo diviso che è chiaramente ormai non incontra più il favore degli elettori, questo è quello che fa paura ai mercati, quindi non si può fare l'elezione in questo momento sotto questa minaccia, ma forse questo potrebbe essere il momento per fare una grande iniziativa nella quale si mette un governo che nasce in un giorno e che con un programma che comprenda anche quello che ho detto prima e che rassicuri i mercati. D'altronde va anche detto che è paradossale la situazione dei mercati che con i soldi che hanno avuto dagli stati che li hanno salvati scommettono contro gli stati. Però adesso questo è filosofia. Questo ci arriviamo. Però lei cosa propone? Cosa immagina? Come nel 92, 93, 94, insomma, quando la lira fu cacciata dallo SME, un governo tecnico di emergenza nazionale con l'appoggio bipartisan di governo e opposizione, un po' un modello greco? Forse sarebbe la cosa da fare. Va anche detto che la situazione è francamente paradossale. Ho sentito che anche la Francia ha superato i 200 punti base. La Francia ha 66 punti, però è un record per loro. La Spagna è a 337. Però guardi che la Francia, secondo me, se l'Italia va, la situazione italiana peggiora, poi attaccano la Francia, perché i numeri della Francia non sono tanto più splendidi dei nostri. Quindi io dico che questa situazione è un po' paradossale, alla fine c'è una scommessa dei mercati in definitiva sul fatto che l'euro salti e che l'Unione Europea salti, perché quello che deve essere chiaro è che se salta l'euro salta pure l'Unione Europea. Su questo volevo arrivare, perché volevo capire, c'è un attacco all'Italia o l'Italia è il pesce successivo dopo i primi pesci piccoli, Grecia, Irlanda e Portogallo? Perché a me sembra un po' come quando si va in cordata in montagna, no? Casca uno nel dirupo, finché tengono gli altri lo reggi. Il problema è che il capofila in questo momento è la Germania, quello che è più lontano dal dirupo, però se iniziano a cascare anche quelli che sono legati in cordata con te, bisogna capire quanto... Tra l'altro non ha senso, che dire, la situazione italiana è una situazione di uno Stato indebitato che è stato così da sempre. La novità, secondo me, è questo attacco generale all'euro, è una situazione politica francamente che richiederebbe ben altra colpi d'ala, no? Qui abbiamo un governo in cui il Presidente del Consiglio è praticamente latitante, sparito, non parla, l'unica cosa che ha fatto negli ultimi anni è stato di parlare, adesso non parla nemmeno. C'è Tremonti lì che tenta di buttare l'acqua fuori dalla barca. Io penso che la soluzione debba essere politica, poi ognuno cerca di fare la sua parte, la Consob. Mi faccia capire una cosa, Bragantini, però se il problema non è l'Italia, ma è un attacco a spirale, un po' come fanno gli squali quando si muovono attorno a una preda e vanno a stringere, anche se noi avessimo un governo solidissimo, poco cambierebbe. Se l'attacco è all'Europa e all'euro, qualunque scusa è buona, no? Sarebbe diverso, perché un grande paese con un governo unito non è come un grande paese indebitato e con un governo all'interno straziato dai contrasti. Detto questo, è chiaro che la soluzione vera è in una maggior, non dico l'unione fiscale, ma gli Eurobond probabilmente finiranno per essere, lo diceva oggi, mi sembra l'articolo di Munchausen su Financial Times, alla fine saranno la soluzione per default, nel senso che ci si arriva semplicemente per via di aiuti dell'Unione Europea o degli stati ricchi, stati forti, agli stati meno pianoforti, come siamo noi in questo momento, purtroppo. Un'ultima domanda, Bragantini, però, allora, se sotto attacco ormai non è più l'Irlanda e il Portogallo, che oggi hanno toccato dei nuovi rendimenti a un passo dal fallimento, il 13% rende un BTP portoghese a 10 anni o irlandese, ma e non è più nemmeno solo l'Italia, perché ormai siamo a 300 punti sul Bund, la Spagna a 337, ma è anche la Francia, perché ha toccato un nuovo record nello spread della Francia rispetto alla Germania. Le chiedo, ma chi è che sta scommettendo centinaia di milioni di euro che l'euro salterà? Cioè, non è una scommessa un po' troppo azzardata? Dipende dalla determinazione delle autorità europee. Se ci fosse da parte delle autorità europee una determinazione che in verità non vedo, il rischio sarebbe fortissimo. E la situazione attuale non è detto. Cioè, ma lei chi si immagina? Quando lei pensa chi attacca l'euro e attacca l'Italia adesso e poi potrebbe toccare la Francia, lei chi si immagina? Bisogna insomma, attaccare. Se io avessi un bond portoghese lo venderei, no? E non sarebbe un attacco speculativo, ma una difesa. Cioè, se la gente si spaventa, alla fine fa delle cose. Ma presente quando qualcuno dice dentro il cinema affollato che c'è un fuoco, poi la gente muore. Secondo me è un po' questa la situazione. Che poi sopra questo ci sia anche qualcuno che diciamo fa la sua scommessa speculativa, magari vendendo corto il titolo. Senza averlo, oggi leggevo che più che lavorare su CDS sembra che vendano corti senza averli, questo è un di più, ma secondo me è la situazione di panico generale che porta a questi movimenti sui quali la speculazione ci mette sopra il carico da 11. Tutto però è accelerato, Bragantini, nell'ultimo mese. Cioè, noi siamo rimasti, per me, dopo l'attacco l'anno scorso a marzo del 2010 e il cattivo salvataggio della Grecia, perché la Germania fino all'ultimo ha fatto la prima della classe e poi si è accorta che la classe va a fondo assieme. Però fino a maggio-giugno, sì, il Portogallo, l'Irlanda, sempre la Grecia, ma nulla si muoveva di preoccupante sui nostri BTP e anche su quelli spagnoli. Cos'è cambiato in un mese? Si è diffusa la convinzione, per me sbagliata, che l'euro non reggerà. Secondo me è sbagliata. Io mi auguro che chi fa questo, diciamo, calcolo sia provato che ha torto, ma è chiaro che è successo questo. A un certo punto il mantra dei mercati è l'euro è un fallimento. Secondo me non è vero. Io mi auguro che ci sia la forza di sconfiggere questo ragionamento. È chiaro che se la Germania però deve spiegare ai suoi elettori che se le banche tedesche hanno perso soldi sui crediti verso la Grecia, a un certo punto lo Stato tedesco deve metterci soldi nelle banche che altrimenti saltano. Quindi che si tratti di aiutare la Grecia o che si tratti di aiutare le banche tedesche non cambia poi tantissimo. Se serve dirlo così agli elettori tedeschi, glielo dicono così, perché come sappiamo, diciamo, l'interconnessione fra la crisi, diciamo, del debito pubblico e la crisi finanziaria privata, diciamo, delle banche è fortissima, no? Mi rifà solo nel salutarci il ragionamento che faceva prima sul fatto che noi abbiamo salvato la Grecia con i soldi nostri e poi questi soldi vengono usati per speculare contro l'Italia e anche la Spagna e la Francia? Sì, no, io dico che no, più che l'Italia, sono in Italia, diciamo, le banche italiane non hanno richiesto grandi somme, ma le banche americane e le banche inglesi sì. Allora, le banche americane e le banche inglesi, che pensiamo da Goldman a metà settembre 2008 stava saltando, no? E certo. Banche sono state salvate con i soldi pubblici, dopodiché usano i soldi che hanno avuto per salvarsi, essendosi salvati, per scommettere contro gli stati, magari non contro, cioè la Goldman è stata salvata dagli Stati Uniti, però magari fra quelli, non lo so, adesso non voglio dire. No, ho capito il ragionamento, cioè abbiamo. Tutti hanno pagato e Barack Obama se ne accorge adesso di quanto è costato salvare le banche americane perché ha un deficit fuori controllo. E loro si sono rimessi a fare, ma questo lo dicevamo però da due anni, cioè io ho fatto la lista venerdì scorso di quanto sono i bonus dei top manager delle banche d'affari americane, sono tornati tutti a record, guadagnano come più di quanto non guadagnassero prima della crisi, nessuno ha fatto niente, anche Barack Obama ha avuto paura. Io sono convinto che si tratti di lavorare sui derivati, perché sono convinto che quando i derivati sono messi sui mercati regolamentati, i profitti da cui derivano quei grandi bonus crollano. Vabbè, sì, ho capito, però lì è il blocco di Wall Street che non ha fatto fare Obama non ha avuto la forza di fare le riforme, anche l'Europa, i tedeschi hanno provato a fare, ripeto, come ogni tanto gli capita, i primi della classe, tanto loro vanno avanti dritti, poi così non è, perché alla fin fine si viene giù l'Europa, viene giù l'euro, anche la Germania non dorme sonni tranquilli, resta il fatto che, come diceva lei, i cittadini inglesi, americani, anche in parte tedeschi, hanno salvato le loro banche che adesso stanno scommettendo contro i cittadini stessi. Voglio dire, Royal Bank of Scotland fu salvata dal governo britannico, probabilmente adesso sta investendo come altre banche, e voglio dire, il paradosso è di quelli che fanno anche irritare. Grazie a Salvatore Bragantini, meteo, pubblicità, poi commentiamo la chiusura di borsa che, ahimè, sui minimi, meno 4% Milano, meno 2,70 Parigi, meno 7,80% Intesa San Paolo, meno 6,30 Unicredito, meno 6,40 la Popolare di Milano. E ci collegheremo con Bruxelles per capire come stia procedendo il vertice Eurogruppo, e poi altri ospiti per commentare quello che sta capitando, che sostanzialmente è l'attacco all'Italia in forma ancora più virulenta rispetto a venerdì. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, inizia un'altra pezzo di questa puntata di Focus Economia, e però il tema resta uguale, ossia l'attacco all'euro, l'attacco all'Italia, la porta d'ingresso per l'attacco principale alla moneta unica si chiama Bel Paese, visto che Portogallo, Irlanda e Grecia, pur essendo significativi, pur avendo creato tensione, sono poca cosa rispetto all'Italia e alla Spagna. Segnalo che, oltre che a quello che ci ha appena detto Salvatore Bragantini, anche un economista spesso nostro ospite, Luigi Zingales, oggi scrive in sostanza che la manovra va fatta tutta e subito, una manovra straordinaria come quella dell'operazione di Ciampi nel 97 che ci permise di entrare nell'euro, e quindi 40 miliardi tutti subito, non spalmati sul 2013-2014 quando non si sa quale governo verrà eletto, è un periodo elettorale e quant'altro. E lo stesso Zingales riconosce che tutto è partito dalla debolezza del governo, questo lo dico al di là di quello che ognuno può pensare. È innegabile però che fino alle amministrative lo spread italiano rispetto al Bund tedesco non fosse preoccupante. Ci avete chiesto più volte la definizione di spread, la definizione di vente allo scoperto, io le spiego anche in diretta, però questa volta abbiamo preparato per l'occasione una scheda. BTP, Bund, Spread, Rating. Il venerdì nero, l'attacco speculativo all'Italia e il crollo della borsa hanno portato alla ribalta una serie di parole che si rincorrono sui mezzi di informazione e da giorni rimbalzano di bocca in bocca. Ma qual è il loro vero significato? BTP e Bund sono rispettivamente titoli di Stato pluriennali italiani e tedeschi. Con le loro emissioni, i due Stati si finanziano sui mercati. Il loro rendimento, che viene fissato con un'asta, è un indice della salute finanziaria e della credibilità dei due paesi. Proprio questa mattina, sul mercato secondario, il BTP decennale ha raggiunto il massimo spread con i Bund tedeschi. Questo significa non solo che per l'Italia diventa più caro ripagare il debito pubblico, vicino al 120% del PIL, ma anche che le previsioni dei mercati sulla salute finanziaria del paese sono negative. Lo spread è infatti il differenziale valutato dal mercato tra il rendimento di un determinato titolo di Stato e il rendimento di un titolo corrispondente di uno Stato considerato privo di rischio, come la Germania. Le vere protagoniste degli ultimi scossoni dei mercati, con i loro giudizi sugli Stati, sono le agenzie di rating, società private indipendenti che valutano il rischio associato a un titolo o a chi lo emette, sia un ente privato o appunto pubblico. Il loro giudizio è sintetizzato nel rating, un punteggio espresso in lettere e in cifre, che rappresenta la capacità dell'emittente di fare fronte ai propri impegni e ha un enorme impatto sulle decisioni degli investitori. Le principali agenzie di rating, Standard & Poor's, Moody's e Fitch, di recente sono state oggetto di forti critiche per il loro ruolo nella crisi, tanto che l'Unione Europea è al lavoro a una riforma per limitare la loro influenza sui mercati. Un altro termine particolarmente diffuso in questi giorni per giustificare i pesanti ribassi registrati dalle borse è vendite allo scoperto o short selling. Si tratta di operazioni speculative che sfruttano la possibilità di vendere titoli senza averne possesso e di acquistarli solo in seguito per consegnarli alla controparte. In pratica, il possessore di un titolo lo presta allo scopertista che lo vende subito, senza possederlo, in attesa di una sua caduta e così accentuandola. Dall'ipotetico valore iniziale di 100 euro, con il passare del tempo l'azione scende a 70 euro. Lo scopertista a questo punto riacquista il titolo e lo restituisce al prestatore, a cui darà anche un interesse per il prestito, tenendo invece per sé la plusvalenza ricavata. Spesso le vendite allo scoperto possono rappresentare un pericolo e una fonte di ulteriore instabilità dei mercati, se effettuate da grandi investitori, come gli hedge fund. Per questo ieri la Consob ha imposto un obbligo di comunicazione per le vendite allo scoperto di dimensioni importanti. Per limitare infine le turbolenze eccessive sui mercati, al variare dei prezzi di un titolo oltre una certa soglia, che per le azioni è del 10%, le negoziazioni su quel titolo vengono automaticamente sospese. Questa è la sospensione, che può avvenire anche su decisione discrezionale della Consob. Allora, sì, che le agenzie di rating siano indipendenti, formalmente è vero, poi sapete che i dubbi li abbiamo anche noi. Sono controllate dai fondi di investimento, da grandi investitori e speculatori come Warren Buffett, nel caso di Moody's, e fondi comuni di investimento americani, per cui, insomma, indipendente nella vita, insomma, uno lo è dentro, da fuori tutti hanno dei soci e dei proprietari. Detto questo, sulle vendite allo scoperto il ragionamento è molto semplice. Se io decido di vendere 10 titoli che valgono 10 euro ma che non ho fisicamente, l'equivalente sono 100 euro, cosa faccio? Dico che li venderò e te li venderò, appunto, e tu mi darai 100 euro, io li compro 3 giorni dopo quando il titolo è crollato e vale 70 euro, a quel punto a me è costato 70, tu però mi dai 100 euro perché questo era l'accordo preso 3 giorni prima, i 30 euro di differenza sono il guadagno che ci faccio. È chiaro che in questo modo però sei molto invogliato a scommettere verso un ribasso del mercato, perché ti conviene in quel caso comprare effettivamente a un prezzo più basso e guadagnarci tra il prezzo concordato prima e quello che tu effettivamente hai pagato. Lo spread, lo spieghiamo ogni giorno, non voglio tornarci, ripeto, è quello che capita a qualunque privato cittadino quando va in banca. Se la banca si fida di te perché hai determinate garanzie, hai patrimonio, ti fa un mutuo o un prestito a un basso tasso di interesse, quando non si fida di te perché non hai patrimonio, non hai garanzie, sei a rischio, ti applica un interesse altissimo. Più sale l'interesse, più il paese è a rischio. Oggi noi siamo arrivati al 3% di differenza sul Bund, ossia il BTP decennale. Per trovare prestiti per i nostri buoni del tesoro che andranno poi a scadenza fra 10 anni, cioè possono essere poi rivenduti fra 10 anni, ormai lo Stato italiano deve offrire il 5,67%. E questa la scheda. Eleonora Michele, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Ecco, nessuna allegria oggi, traffico e poi la borsa, soprattutto per quello che riguarda i bancari, anche se devo dire che i bancari oggi vanno male in tutta Europa, non mi sembra il caso di dire mal comune mezzo gaudio. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, Eleonora Micheli, male tutti, insomma, qualche cosa che lasciamo stare le banche vanno male in tutta Europa. Fondiere Assai rimbalza, non ho alcun commento da fare, meno 7,70% Intesa, meno 7,40% Azimut, meno 6,40% Popolare di Milano, meno 6,30% Unicredito, meno 6,30% Mediolanum, e ancora Generali meno 4,60%, Monte dei Paschi meno 4,5%, Mediobanca meno 4,30%. Cosa volete che vi dica? Telecom Italia che perde il 5,50%, Tods che perde il 5,50%, è chiaro che va giù tutto. Tra le scarpe Tods e Telecom Italia non vedo grandi affinità. Ancora Exor meno 4,30%, Parmalat meno 4,15%, Enel meno 4%, Enel Green Power meno 4%, Mediaset meno 3,80%, qui c'è anche la sentenza CIR, Impregilo meno 3,60%, Banco Popolare meno 3,5%, Lottomatica meno 3,30%, Prismia meno 3,20%, mi fermo con chi perde il 3%, Fondiaria Sai più 1,60. Sì, Fondiaria Sai più 1,60, d'altra parte nelle quattro sedute precedenti i titoli avevano perso il 26% circa del proprio valore, quindi un rimbalzo ma strettamente tecnico. Poi nelle sedute precedenti ancora il titolo aveva registrato una performance assolutamente debole. Venerdì scorso si è chiusa comunque la trattazione in borsa dei diritti relativi all'aumento di capitale da 450 milioni, aumento di capitale che terminerà il prossimo 15 luglio, e quindi questo ha favorito anche questo rimbalzo di natura strettamente tecnica. Poi semmai va detto che venerdì scorso Unicredit e Premafin hanno comunicato di aver sottoscritto il patto parasociale relativo alla compagnia e hanno detto che al termine dell'aumento di capitale la holding degli Gressi deterrà appunto il 35,7%, mentre l'istituto di Piazza Cordusio il 6,6%. Allora, l'effetto la sentenza CIR, perché oggi, come era prevedibile, 560 milioni di euro, insomma sono 560 milioni di euro, media si è andata male, ma CIR non ha avuto nessun beneficio, anzi ha perso pure CIR. Sì, anzi ha perso tanto, il 7,2%. A dir la verità le azioni della società di De Benedetti erano partite bene in lieve rialzo e poi subito a metà mattina hanno imboccato la strada del ribasso, hanno iniziato a perdere il 4%, poi appunto sul finale meno 7,2%. Il motivo, c'è cioè un po' di isteria, comunque i trader sostengono che la decisione della Corte d'Appello era abbastanza scontata già nei prezzi, adesso anzi siccome la borsa inizia sempre a guardare in avanti si scommette su nuovi colpi di scena a partire dalla Cassazione che potrebbe appunto ribaltare la sentenza. I migliori peggiori in assoluto, ve li do subito, il migliore è Seat Pagine Gialle, bene, più 6,60%. Sì, Seat allora, Pagine Gialle ha festeggiato l'accordo, il rinnovato accordo con Google di un'alleanza strategica nel settore della pubblicità e i titoli quindi hanno fatto questa performance che oggi potrebbe essere definita strepitosa visto l'andamento di borsa. D'altra parte le azioni di Seat Pagine Gialle stanno a 0,06 euro, un prezzo molto basso. Stanno molto quasi come le chiacchiere, Leonora. Esatto. A zero. Allora, Rete Lit Italia meno 9,97, Credem, Credito Emiliano meno 8,56, Class Editori meno 8%, insomma, Zucchi, e poi c'è Intesa San Paolo meno 7,70%. Non ho molto altro da aggiungere, le altre borse europee vanno guardate con attenzione oggi, meno 2,70 Parigi, che perde parecchio, non come Milano, che perde il 4, però insomma non male. Francoforte meno 2,33, Londra meno 1%, molto male anche le banche francesi, Leonora, per concludere. Sì, male le banche francesi, non come quelle italiane. Quelle italiane ovviamente c'è il panico sulle banche che sono già da settimane sotto i riflettori. In più ovviamente non facilita il crollo, l'andamento dei titoli di Stato. Ricordiamo che infatti gli istituti italiani sono ricchi nel proprio portafoglio proprio di titoli di Stato italiani e quindi il fatto che i titoli di Stato vadano come vadano, come hai detto tu, lo spread con i bund tedeschi è arrivato a 301 punti base, ovviamente impatta negativamente anche sulla performance di borsa delle azioni bancarie. E non ora me lo lanci tu il gufo? No, ti prego. Grazie, grazie Leonora Michele, Radio Corri sulle 24 ore, ho un gufo in crisi di identità ormai, perché non so, non sa più nemmeno lui se ha più senso essere un gufo con quello che sta capitando. Fra un po' lo mettiamo sul lettino dello psicanalista, Sergio Nava in collegamento con noi da Bruxelles, no veramente oggi abbiate anche voi un po' di pietà, visto il venerdì, Sergio Nava in collegamento da Bruxelles, ciao Sergio. Il gufo è già andato, per cui rischi poco. Allora, sono usciti dalla riunione i ministri economico-finanziari, c'è qualche dichiarazione di Tremonti, molti ascoltatori fanno notare il silenzio anche del Presidente del Consiglio, cioè l'unico che ha parlato del governo è Romani, che ha detto, con tutto rispetto per Romani, ma insomma non è che i mercati ascoltino Romani. la speculazione è basata sul nulla, i conti sono a posto, infatti poi il mercato ha perso un altro 1% e lo spread è volato a 300 punti. Poco fa Bossi ha detto: il fatto stesso che non abbiamo battuto ciglio e siamo rimasti al governo significa che avevamo coscienza di quello che sarebbe successo. Se ce ne fossimo andati saremmo finiti come la Grecia e saremmo... Ed obbligo, reazioni da Bruxelles, sono ancora chiusi nelle stanze? Sì, sì. Segrete al stanze? L'Eurogruppo è iniziato in anticipo, circa un'ora e mezza in anticipo rispetto al solito, ma i ministri delle finanze sono ancora chiusi. La cosa che si può dire è che ho adocchiato un po' la cerimonia di firma del nuovo fondo salva stati, ho potuto vedere un Tremonti molto scuro in viso che ha firmato senza batter ciglio e senza proferire parola, mentre intorno a lui i vari ministri delle finanze scherzavano tra di loro, quindi sicuramente è abbastanza scuro in viso Giulio Tremonti. Sì, ormai siamo, diciamo, alla fisionomica di Tremonti, perché se non parlano andremo appunto a analizzare i tratti somatici, la somatizzazione. Dite qualcosa per favore, perché insomma è chiaro che in questo momento il silenzio è un varco anche per le speculazioni. Sì, inviterei anche gli altri ministri a ridere un po' di meno, perché prima o poi tocca sempre a qualcuno. Sergio Nava, quando è che si avrà un comunicato dall'Eurogruppo, che oggi si è occupato anche di Grecia, ma insomma con l'Italia convitato di pietra, inteso come tema? Allora, sicuramente ci sarà una conferenza stampa in serata, probabile verso le 10. Posso dire che, ed è notizia di pochissimi istanti fa, è uscito un comunicato sul famoso prevertice di questa mattina che ha coinvolto il Presidente europeo Van Rompuy, il Presidente della Commissione Barroso, il Commissario all'Economia, il Presidente della BCE. Di fatto uno scarnissimo comunicato nel quale Van Rompuy ha messo nero su bianco che si è parlato di un nuovo piano per la Grecia e degli ultimi avvenimenti, degli ultimi sviluppi all'interno dell'Eurozona. Quindi insomma si lascia un po' intendere, forse si è parlato anche d'Italia, ma oltre non si è andati, uno scarnissimo comunicato. Staremo a vedere. Grazie per ora Sergio Nava, che appunto attende da oggi ora di pranzo l'esito del vertice a Bruxelles. Non metto Prezzolini, non metto cos'è questa crisi, perché è troppo ironica. Metteremo altre cose dopo. Adesso c'è il GR, poi parliamo della situazione con chi una situazione purtroppo analoga l'ha vissuta in prima persona, sia come Presidente del Consiglio che come Presidente della Commissione Europea. Mi riferisco a Romano Prodi, sarà nostro ospite dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, continuiamo il giro di interviste, vista la giornata, ripeto, meno 3,96% Milano, meno 2,70% Parigi, pesante anche Parigi, lo spread italiano sui bund ha toccato i 300 punti, un nuovo record storico, che significa che il BTP a 10 anni italiano rende il 5,67%. La cosa più preoccupante, a mio avviso, è che ci stiamo avvicinando al livello spagnolo. Anche la Spagna ha visto peggiorare tutti i rendimenti, cioè alzarsi i rendimenti delle sue obbligazioni, quindi peggiorare quello che è il giudizio sul paese. Però siamo a 337 punti in Spagna, quindi ci distanziano dalla Spagna 30 punti e i BTP a 10 anni spagnoli rendono il 6%, quelli italiani il 5,67%. Non ve li do neanche più gli aggiornamenti sui titoli, insomma Intesa San Paolo ha perso 7,70%, è arrivato a perdere il 9%, Unicredit il 6,30%, il record del franco svizzero sull'euro. E le attese per quello che uscirà dal vertice Eurogruppo di oggi, che è ancora in corso, come avete sentito. E poi questa telefonata di Angela Merkel a Luna, la cancelliera tedesca che ha chiamato Berlusconi, ha detto in sostanza: approvate la manovra il prima possibile. C'è chi ha commentato: sembra quasi un commissariamento tedesco. Insomma, a me interessa poco, basta che vi sia un fronte unitario. Professor Romano Prodi, buonasera. Buonasera a lei. Lei è stato Presidente del Consiglio, ma anche dal maggio del 96 a ottobre del 98, quindi in un periodo in cui si fece una manovra anche molto pesante per iniziare l'ingresso verso l'euro, e era Presidente della Commissione Europea dal 99 al 2004, quindi quando poi l'Italia, con una manovra anche molto significativa, riuscì a entrare nell'euro. Come sta? Benissimo, personalmente. Dal punto di vista di cittadino sono preoccupato e addolorato. Preoccupato lo capisco, addolorato? Beh, perché vedo che non c'è solidarietà, non parlo tanto dell'Italia, no? Cioè, questa è una situazione che sta scappando di mano a tutti i politici del mondo. Cioè, abbiamo un bilancio americano che è disastroso, cioè, veramente, e la tensione interna americana non viene affatto tradotta dai mercati, i quali si scatenano in questo momento sull'Europa. L'Europa a sua volta non sta dimostrando solidarietà, speriamo che esca qualche notizia da Bruxelles, ma in questo momento stiamo parlando un pochino solo sul passato, perché da Bruxelles non arriva ancora niente, e quindi siamo come un punching ball preso a pugni da tutti, no? E questo evidentemente mi addolora, mi preoccupa, no? Perché è già tre giorni che questo sta succedendo, né d'altra parte, e infine questa è la mia ultima osservazione, vedo una reazione politica concertata o anche intrapresa all'interno del paese, no? C'è questa specie di senso di fatalismo in cui tutto viene rinviato, e per Bacco in questa occasione bisogna prendere decisioni, eh. Senta, è messa la situazione, secondo lei, peggio adesso o nel 92? Beh, nel 92 era cattivissima, però furono prese decisioni. È lì il problema, cioè nessuna situazione è così drammatica da poter essere fatale se si riesce a fare della politica, specialmente un paese come l'Italia che, mi permetta l'osservazione rispetto ai miei amici greci, non è come la Grecia, è un paese forte, è un paese che ha 8.000 miliardi di euro di ricchezza delle famiglie, è un paese che ha ancora una produzione industriale forte, no? E che in questo momento mi sembra passivo di fronte a questi grandi eventi internazionali. Il fatto, poi arriviamo anche, torniamo sull'Italia, però vorrei restare per un attimo con lei, professor Prodi, sull'Europa. Il fatto che oggi l'Italia si sia avvicinata al livello spagnolo come rischio percepito dai mercati, ma anche la Francia abbia iniziato a intraprendere una strada e ha avuto un nuovo record nella differenza, sì, con il Bund tedesco, per carità, l'Italia ha 300 punti, cioè al 3%, la Francia ha 60 punti, può portarci a dire che in qualche modo mal comune mezzo gaudio? Voglio dire, io ho fatto l'esempio prima della cordata, casca uno nel burrone, tutti gli altri tengono e allora lo tiri su. Se inizia a cascare il penultimo, fai più fatica. In questo momento il capocordata è la Germania, però da sola non può tenere tutto il resto. Secondo lei questo paradossalmente può portare a una maggior consapevolezza sia in Angela Merkel ma anche in Sarkozy che serve un'azione forte, se no non si salva nessuno? Certamente lei ha ragione, su questo io non ho dubbio, non sono per il mal comune mezzo gaudio, però accidenti, finalmente si accorgeranno che non è che nell'euro ci siano solo i tedeschi o solo gli italiani o solo i greci, si accorgeranno che siamo insieme in un unico legame monetario e che dobbiamo lavorare assieme. Finora sembrava una specie di grande processo del nord verso il sud, come se loro potessero fare soltanto i giudici e rimanere immuni dalle conseguenze della sentenza. Oggi i punti persi dalla Francia dovrebbero essere un ammonimento alla Francia, che finora ha guardato solo alla Germania, non ha mai svolto, e qui parlo anche in senso politico, è un'osservazione che sto facendo da settimane, non ha mai svolto un ruolo di collante, di coordinamento, di interesse comune con gli altri paesi europei. La Francia, io credo che oggi si renda conto che non è mors tua vita mea, ma che siamo tutti nella stessa barca. Ecco, quindi non mal comune mezzo gaudio, ma senso della comune responsabilità, questo sì. Beh, in effetti la Francia ha preso una bella scopola anche lei, ripeto, meno 2,70% con i bancari, male, male anche in Francia. Lei sa benissimo cosa vuol dire 300%, lo ha già spiegato, lo spiega sempre, significa buttare via due manovre in un colpo solo, insomma, dobbiamo renderci conto che c'è bisogno di una reazione corale urgente. Lei richiamava prima i momenti difficili del mio governo, ma io onestamente non esitai, anche affrontando la derisione di tanti, a dire voglio la tassa per l'Europa, perché in questo momento il Paese è di fronte agli occhi di tutti e deve dimostrare di saper essere unito. Andò benissimo, fu un appello accolto da tutti, ripagammo la parte che ci eravamo ripromessi di restituire e veramente il Paese passò un momento difficile, ma lo passò bene. Io credo che bisogna fare la stessa cosa, avere una reazione rapida, comune, condivisa di fronte a una situazione di emergenza. Sì, lei, chiaramente anche il governo Ciampi-Dini Amato, che fece delle manovre mostre allora, se le prendiamo, se le prendiamo con in valori attuali. Mi dico una cosa, professore, poi ho il traffico e invece le chiederò qualcosa anche sull'Italia, però lei ha titoli di Stato italiani? O comprerebbe titoli di Stato italiani? Io, siccome faccio gestire il mio risparmio, penso proprio di sì, immagino che il mio gestore, avendo detto che non volevo, che volevo un risparmio con poco rischio, abbia messo, immagino abbia messo i titoli pubblici, ecco. Allora, ogni punto percentuale, come lei accennava, in più sul debito significa pagare qualcosa come 15 miliardi di euro. Noi paghiamo 70 miliardi di euro di interessi sul debito, ogni punto percentuale se ne va una manovra finanziaria. Se fosse confermato l'aumento dei BTP di 3 punti percentuali, non ci vuole un genio per capire che sono 45-48 miliardi di euro, cioè tutto lo sforzo della manovra su 4 anni. Di manovra e anche di iniziativa politica parliamo dopo il traffico con Romano Prodi. 349-238-6666 per i vostri SMS. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per quest'ultima parte di Focus Economia. Venerdì nero, lunedì anche peggio, mettiamola così. Professor Prodi, prima di arrivare all'Italia, una curiosità. Lei ha fatto notare che il deficit americano, che viaggia intorno al 14%, se prendiamo anche gli stati federali, il deficit di singoli stati... Quello è sicuro che lo contano in modo meno severo di noi. È vero, è vero. Però, insomma, l'America è messa malissimo, ha dovuto salvare il suo sistema finanziario con i soldi facendo deficit, però nessuno attacca l'America. Ma perché? Esattamente, quello è quello che stavo dicendo. Perché siamo in un... La divisione europea fa sì che tutti ci possano picchiare. Prima le ho parlato di Punchinball. Tutti ci possono picchiare e noi non reagiamo. Guardi, è una situazione assolutamente derivata puramente dalle nostre divisioni politiche, ma non c'è nessuno che in modo corale faccia capire che la realtà delle cose è diversa da come si stanno comportando in questo momento i mercati e quindi orientare i mercati verso la direzione giusta e oggettiva. Questo è quello che mi preoccupa, no? Ma lei lo capisce bene perché deriva, non solo perché l'America è grossa, coesa, il dollaro è sempre il dollarone, ma anche perché si vede che i paesi europei sono divisi fra di loro e si colpiscono uno a uno come gli orati e i curiati, perché la speculazione va a colpo sicuro, no? La speculazione fa il suo mestiere, vediamoci, non sto mica additando fantasmi o mostri, La speculazione capisce che se una moneta può essere indebolita e si fanno i soldi indebolendolo, lo fa, fino al punto di ridurla all'esaurimento. E il problema è la mancanza di coordinamento dell'Europa. Qui i paesi europei, ma fin dal primo momento, non hanno voluto capire che l'euro significa dovere agire assieme. Quando Presidente della Commissione io proposi di applicare le regole di Maastricht, cioè le regole di comportamento, no? Riguardo al deficit, all'inflazione, al debito, sotto presidenza italiana, fu la presidenza italiana e i francesi e i tedeschi prima di tutto a dire che non ci pensavano neanche perché non volevano un controllo dall'alto, rifiutarono fino il controllo aritmetico, sì, aritmetico dell'Eurostat, dell'ufficio di statistica, e quindi ognuno ha fatto i cavoli suoi. Allora, di fronte a questo è chiaro che ci presentiamo deboli di fronte alla speculazione internazionale. Ecco, veniamo, io vorrei capire un'altra cosa, che è la stessa domanda che ho fatto prima a Salvatore Bragantini, e cioè, in questo momento è sotto attacco l'euro, cioè andando prima coi pesci piccoli Grecia, che sarà messa da sola nei guai, Irlanda e Portogallo, poi adesso i pesci grandi Spagna, Italia e poi eventualmente la Francia, o è sotto attacco l'Italia? Cioè, perché sono due cose diverse, nel senso che se fosse l'Italia in questo momento allora possiamo chiedere misure anche di carattere politico, ma se l'attacco è a tutto l'euro, tu puoi fare anche professore, governo di coalizione nazionale, ma tanto l'euro continua ad attaccarlo. Ma lo so, ma vedi, è come quando arriva un'epidemia, no? Attacca tutti, ma i vecchi malati, quelli che hanno preso prima un'influenza o un raffreddore, sono i più deboli. Quindi l'attacco certamente si spande verso più paesi dell'euro. Il problema è di non essere fra coloro che, essendo malati, muoiono. Il problema è quindi farci un'iniezione di vitamine e mostrarci forti di fronte agli altri. Cioè, io non distingo dal fatto che l'attacco sia all'euro o all'Italia. La speculazione vuol fare i soldi, è molto semplice. E se noi ci dimostriamo deboli, li fa i soldi contro di noi. Allora, professor Prodi, oggi il Presidente della Repubblica Napolitano ha chiesto una coesione nazionale per delle prove che sono difficili. Il sottosegretario con la delega alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta, ha telefonato al leader dell'UDC, Casini. Sì. Gianni Letta, immagino. Gianni Letta, mi scusi. Ha telefonato, e anche poi c'è una telefonata tra il PD e l'UDC. Infine, lo stesso Bersani, quindi il leader del PD, ha detto l'opposizione farà la sua parte, non faremo ostruzionismo. Secondo lei la soluzione è un governo, diciamo, tecnico di coalizione nazionale? Ma il problema oggi non è mica il governo, qui mica ci lasciano il tempo di pensare a quale governo, eccetera. Il problema è prendere delle decisioni immediate sulla finanziaria, cioè avere 3 o 4 punti da cambiare assieme. Se si può avere un accordo su questi 3 o 4 punti che diano un messaggio forte, perché è chiaro, se noi facciamo una finanziaria in cui tutto viene rinviato al 13 e al 14, come la finanziaria di adesso, in cui tutto sembra velato e in qualche modo non definito, i mercati sanno benissimo, e poi se intorno a questo nascono poi le liti e gli insulti, il mercato internazionale dice, ma perché non colpirli, no? Sono i più deboli, sì. E fa il sistema degli orazzi e curiazzi, insomma. Mi scusi se insisto, professor Prodi, però vorrei capire, il problema è che la finanziaria è fatta scaricando tutta la manovra sul 2013-2014, quindi in un periodo elettorale sappiamo tutti che sotto elezioni difficilmente si fanno 20 miliardi e 17 miliardi di, o è la litigiosità della coalizione di governo? Ma su tutte e due le cose, no? Se, voglio dire, io le ho detto con molta semplicità, va bene che ero appena arrivato al governo, ma io ho fatto la tassa sull'Europa immediatamente e sono riuscito a imporla perché c'era un obiettivo chiaro e una forza politica in quel momento capace di imporla. Allora, il problema è questo, il governo riesce a fare alcuni emendamenti che facciano sì che l'opposizione immediatamente possa dire su questo partiamo assieme o no? Si stanno parlando con la Banca d'Italia o con la direzione del Tesoro, con chi tiene i conti, per fare le proposte che dimostrano che c'è una reazione unitaria e concorde o no? Questo è quello che io mi chiedo, e l'invito del Presidente della Repubblica è fondamentale su questo, ma a questo invito deve corrispondere immediatamente un set di proposte che siano anche dure, ma che siano condivise, ecco. Io potrei farne tante che ho in mente, ma non sono certo io, ecco, che può dire queste, ma le proposte ci debbono essere veloci e dare quello spazio per cui anche l'opposizione dice benissimo, non le condivido tutte, ma siamo in emergenza, in questi casi ognuno deve essere patriota. Professor Prodi, mi dica un'ultima cosa, se lei fosse ancora il Presidente del Consiglio, oggi al di là, ho capito, di una misura d'emergenza immediata che blocchi ogni spazio di speculazione, farebbe anche un intervento, nel senso che Berlusconi oggi non ha ancora parlato, Tremonti è chiuso al vertice Eurogruppo, parlerebbe, farebbe una dichiarazione alle agenzie e per dire cosa? Per dire 3-4 misure che aggiustano le finanze pubbliche distribuendo in modo equo i pesi e dicendo naturalmente queste sono misure di emergenza, possono anche essere cambiate in futuro. In secondo luogo, immediatamente ripristinare la spending review, perché io sto esaminando in questi giorni come è andata la spesa pubblica negli ultimi anni e qui si sono rotte tutte le cateratte. Questo deve essere fatto in modo da assicurare i mercati, ripeto, con una riunione d'urgenza, con Banca d'Italia, con la direzione del Tesoro, e in modo da dare la sicurezza che le proposte sono realistiche, i conti sono seri e i mercati stiano attenti, perché c'è dietro un paese forte e un paese coeso. Poteva andare anche peggio oggi. Potrebbe essere peggio. Ecco. Potrebbe piovere. Professor Prodi, la Frankenstein Junior, almeno scherziamo nel finale, perché vista la giornata io la ringrazio. No, io le dico che peggio di così era difficile. Vabbè, potrebbe anche piovere, visto il caldo che fa, magari quello sarebbe una buona notizia. Grazie a Romano Prodi in collegamento. Grazie con noi. Da Sebastiano Barisone è veramente tutto, domani è un'altra giornata, un altro giorno, pensiamo a qualcos'altro, pensiamo all'estate. Noi ci risentiamo dalle 17 in poi domani con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24, la passione si sente.